Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Parlo con te, sì, proprio con te, che stai ascoltando in questo preciso istante Blu Radio Veneto. Prova ad indovinare, sono quasi le 18:30, è molto probabile che tu mi stia ascoltando in auto. E se mi stai ascoltando in auto, forse stai tornando a casa, forse stai tornando a casa da lavoro. Io non so se tu abbia o meno un lavoro, e nel caso tu lo abbia, non so quale sia, non so se ti piace o meno, non so se tu sia precario o sia uno a tempo indeterminato, non posso sapere se tu giochi nella squadra dei dipendenti o in quella dei datori di lavoro. Però so una cosa, che in questi mesi di lavoro ne hai sentito parlare moltissimo. Hai sentito parlare del lavoro che manca, hai sentito parlare del lavoro da riformare, del lavoro flessibile, del lavoro che fugge e va all'estero. Ma cos'è il lavoro? Qualcuno, leggendo la Bibbia, lo ritiene una condanna per via di quell'ordine «lavorerai con sudore». Altri lo vedono come una grazia, che permette all'uomo, con le sue umili origini, di divenire partecipe dell'opera creatrice di Dio. Nella storia, il lavoro ha assunto diverse connotazioni. Molti lo hanno descritto o ci hanno provato. Passiamo dall'ora et labora di San Benedetto al lavoro come alienazione di Marx. Ma, ripeto, che cos'è il lavoro? Maggio, da sempre il mese dedicato al lavoro, e proprio a partire da quel primo maggio, da quella festa del lavoro. Leggiamo uno stralcio del messaggio del Vescovo Antonio mandato alla diocesi di Padova in occasione della festa del lavoro di 2 anni fa, del 2010. Dal messaggio del Vescovo Antonio per la festa del lavoro 2010 alla Diocesi di Padova. Tutto il pensiero cristiano sul lavoro ci porta ad evidenziare, in questa occasione, un altro punto su cui, come Chiesa di Padova, vorremmo sempre più insistere e spenderci: la grande domanda sul senso e sul significato del lavoro umano. Ci pare sempre più evidente che, oltre ai problemi etici e sociali circa il lavoro, oggi si stia perdendo di vista anche la domanda del perché lavorare. Non saper rispondere a questa domanda ci pare una delle cause di tanti malesseri della società, delle persone, delle famiglie, che va drammaticamente ad intrecciarsi con i momenti di difficoltà legati alla precarietà, alla disoccupazione. Ciò si manifesta, ad esempio, con un fenomeno singolare anche dal punto di vista economico. Alcuni lavori, come quelli legati alla cura delle persone, non vengono apprezzati e spesso non si trovano giovani disposti a svolgerli. Sembra esserci una sorta di distorsione proprio rispetto al valore e al senso in se stesso del lavoro, per cui viene persa di vista la sua dimensione di servizio agli altri e alla comunità, privilegiando invece dimensioni quali il prestigio e l'apparenza. Di nuovo, che cos'è il lavoro? La diocesi di Padova, come pastorale sociale del lavoro, se lo sta da tempo domandando e sta cercando di far suscitare la domanda anche in tutte le persone che sono impegnate nel mondo del lavoro, a diverso titolo. Un passo importante da questo punto di vista è stata l'istituzione, nello scorso novembre, di un'equipe pastorale composta da ben 5 persone che possa lavorare e dar testimonianza all'interno della cappella intitolata San Giuseppe Lavoratore nella zona industriale a Padova, proprio dove tutta la gente lavora. Tra di loro ci sono 2 suore operaie, suore di un ordine che prevede come carisma fondamentale il lavoro in mezzo ai lavoratori. Ecco noi in collegamento telefonico suora Italina Parente, suora operaia della Santa Casa di Nazareth. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buona giornata. Una domanda diretta: perché è diventata proprio suora operaia e non ha scelto altri ordini? Perché? Cosa le è piaciuto di questo carisma particolare? Allora, le dico, inizialmente mi ha colpito molto mi hanno colpito molto due cose: la libertà e la gioia che ho visto in questa comunità a cui mi ero avvicinata. La libertà nel senso che ogni persona era, con le sue caratteristiche, restava tale, e la gioia della vita comunitaria, della vita insieme. Dopo, in realtà, approfondendo anche il tutto, visto che insomma era una comunità per una missione specifica, per dire Gesù all'uomo che lavora. E questo mi ha appassionato molto, perché io avevo scoperto nel mio lavoro, nel lavoro che facevo prima, la presenza di Gesù e quanto fosse importante cercare di vivere cristianamente nel proprio ambiente. E accanto a questo c'è proprio anche la semplicità di una vita ordinaria, di una vita condivisa con la gente, di piccoli appartamenti in quartieri, di piccole comunità che quindi vivevano la spiritualità di Nazareth, una spiritualità di vita proprio familiare, ordinaria, dove il lavoro e la comunità di vita sono due caratteristiche strettamente collegate. E poi una ricerca che si approfondisce, queste sono le cose che mi hanno colpito, però ancora di fatto è un approfondimento continuo, ecco. La sua missione l'ha portata in zona industriale a Padova. Sì. Qual è l'aria che si respira in questi mesi? In questi mesi, le dico sinceramente, è un'aria a volte pesante, a volte data dalla fatica di un tempo di crisi, di un tempo che comporta delle difficoltà economiche anche molto gravi, per cui tanti ci confidano proprio la fatica di stare in piedi e il dolore per come dover ridurre a volte anche i tempi di lavoro e anche lo stipendio dei propri dipendenti. Accanto a questo però si respira anche molta, molta solidarietà e molta disponibilità da parte di chi lavora in un'azienda, per esempio, di ridurre tutti l'orario perché ciascuno possa non essere lasciato a casa. Quindi insomma è una situazione critica che lascia però venire fuori anche tanti segni di speranza, di una possibilità nuova, anche di un modo nuovo di vivere il proprio lavoro. Secondo lei, le persone che lavorano nella zona industriale, che idea hanno del lavoro? Secondo me, tanti, almeno quello che io ho percepito, tanti hanno fatto del lavoro un po' la loro vita. E ho respirato molto l'orgoglio di persone che hanno costruito grazie al proprio lavoro un'azienda, che hanno dato vita per questo ad una famiglia che potesse vivere in certe condizioni. E questa situazione credo che metta un po' in crisi un'idea di lavoro assolutizzata per qualche aspetto, perché è sicuramente importante, però non è soltanto il mezzo per realizzare un tipo di vita o per realizzare un benessere economico o per realizzare una posizione sociale, per vivere diciamo un'apparenza che è quella che la cultura impone. E non c'è soltanto questo, c'è anche chi invece ha l'idea del proprio lavoro come un qualcosa, uno strumento per potersi realizzare. Torniamo tra pochissimo a parlare di senso del lavoro dopo una breve pausa. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Eccoci di nuovo in collegamento telefonico con suora Italina Parente, suora operaia della Santa Casa di Nazareth, che opera nella nostra zona industriale di Padova. Grazie per essere con noi. A voi. Parlavamo di senso del lavoro. Prima ha parlato di un lavoro che ha dato un'identità a delle persone e che è diventata in qualche modo per alcuni assolutizzante, quindi in questo periodo di crisi rischia insomma di far crollare la terra sotto i piedi a qualcuno. Ma accennava ad un altro tipo di senso del lavoro da parte di alcuni. Sì, che credo sia quello che oggi può essere riscoperto. Un lavoro che è una vera e propria chiamata di Dio, un lavoro che ha degli aspetti ambigui sicuramente e che vanno riconosciuti, perché non è soltanto attività capace di creare, di costruire, di realizzare, ma è anche fatica, è anche dolore a volte, è anche confrontarsi strettamente con il limite, con i limiti personali, sociali, strutturali, e un riconoscimento delle ambiguità di questo tipo, ma un radicamento in una chiamata che è al di là, che viene prima di noi e che, in una parola, che viene prima di noi e che rimane dopo di noi, permette di dare un fondamento solido al lavoro, permette di renderlo molto più umano, cioè permette di riscoprire la relazione di cui è fatto, e non lo riduce semplicemente a cosa, a strumento che serve per consumare, per vivere altrove, però per vivere un tempo libero, per fare delle cose o per apparire in un certo modo. Quindi un senso che è pienamente umano e che è pienamente realizzante per questo, perché non è ridotto ad oggetto. C'è una frase molto bella di Simone Weil che a me piace tanto, no? E che dice così: la radice del male è proprio nel fatto che gli uomini fanno la parte delle cose, purtroppo in situazioni più critiche, diciamo, questo può diventare anche una possibilità. Ci si può rendere conto, ecco, che si sta facendo la parte delle cose e ritornare invece a fare la parte degli uomini che sono radicati in una chiamata più grande. E proprio per questo, qual è l'annuncio che la Chiesa vuole dare al mondo del lavoro sul senso principale, sul senso fondante per il quale l'uomo è chiamato a lavorare? L'uomo è chiamato a lavorare per realizzare l'immagine di Dio che è scritta in lui. E a me piace molto l'idea dell'immagine, perché Dio ci insegna a lavorare con le immagini da subito. Mette l'uomo in un giardino e gli dice: tu lo custodisci e lo coltivi, e quindi pone un'immagine un po', è quella che fa muovere l'uomo, è quella che ci fa muovere, perché muove il nostro desiderio e ci dice dove vogliamo arrivare. E quindi di fatto l'annuncio è questo: dove io voglio arrivare deve essere molto chiaro, voglio vivere il mio lavoro e voglio annunciare questo, annunciare un Gesù che mi ha fatto vedere come si vive il lavoro, perché lo ha vissuto in prima persona, e mi ha fatto vedere come si realizza quell'immagine. Cioè, voglio viverlo da uomo che realizza, che diventa Dio, praticamente. E per farne uno strumento importante, quello che San Paolo dice, per crescere nell'amore vicendevole. Nel messaggio per la festa del lavoro del 2010, il vescovo di Padova, Antonio Matiazzo, si domandava il perché del lavoro e arrivava a dire che viene persa anche di vista la dimensione di servizio agli altri e alla comunità nel lavoro, per privilegiare dimensioni quali il prestigio e l'apparenza. Il vero senso del lavoro è il dunque lo stare dentro la comunità e lavorare, e questo senso di lavoro come servizio. C'è bisogno di questo annuncio, e in che misura? C'è bisogno perché il cuore dell'uomo cerca questo, cerca una vita piena, una vita realizzata in pienezza, e questo è possibile soltanto nella misura in cui si scopre inserito in una relazione, anche con il proprio lavoro, bisogna un po' rimettere in alto la relazione che c'è tra la persona e il suo lavoro, e non soltanto rendere il lavoro cosa che la persona utilizza. Quindi c'è bisogno per una semplice ragione: perché noi cerchiamo la verità che ci libera, e nella misura in cui noi capiamo in quale direzione stiamo andando e ci orientiamo in quella direzione, possiamo vivere la libertà e possiamo partecipare a quel progetto che è di cura e di promozione della vita attraverso il nostro lavoro. Dal punto di vista dell'organizzazione, dei problemi sociali e del lavoro, qual è la questione che ostacola di più una promozione e la percezione di un senso più umano e più degno del lavoro nell'organizzazione economica? Secondo me è quella che un po' accennavo, e che bisogna uscire da un modo di pensare che vede la relazione di lavoro con le caratteristiche di mercato e basta, e che traduce ogni problema sul lavoro semplicemente in una questione di accoppiamento, no, tra domanda e offerta. In questo modo il lavoro è trattato come una merce qualsiasi ed è privato della qualità profondamente umana che ha dentro. Quindi nella misura in cui si riscopre questa qualità è possibile anche migliorare l'organizzazione. Saranno sempre dei fattori oggettivi che in qualche maniera ostacolano, la storia ce lo ribadisce, possono essere diversi, però alla fine quello che rimane il perno fondamentale è la persona che lavora ed è la qualità umana che è inserita nel suo lavoro. Cosa fate voi come cappellania della zona industriale per venire incontro a questa sete di questo annuncio, di questi lavoratori che vogliono in qualche modo riconoscere la dignità del loro lavoro al di là del lavoro considerato come una merce di scambio? Cerchiamo di dire quella parola che rende libero il lavoro, cioè quella parola di Gesù. Lo facciamo in una maniera molto semplice, visitando le aziende, portando la nostra presenza e portando una parola, appunto, quella parola che è in grado di radicare il loro lavoro in un orizzonte molto più ampio. Quindi visitiamo le aziende, condividiamo con loro la preghiera di affidamento del loro lavoro in momenti particolarmente sentiti come possono essere il Natale e la Pasqua, e crediamo sostanzialmente in una cosa: sono piccoli e poveri segni, però crediamo nel potere dei segni e non nei segni. C'è la presenza, insomma, è una presenza che va al di là della singola giornata di lavoro, ma che inscrive questi lavoratori in un disegno ben più ampio. Sì, sì, e ci rendiamo conto che dalla risposta di quanto bisogno c'è che questo accada. Grazie per, non solo per essere stata con noi oggi, ma anche per tutto quello che fate voi come consorelle, come suore operaie della Santa Casa di Nazareth, ma anche come la cappellania della zona industriale, perché proprio nel lavoro l'uomo si è raggiunto dalla parola di Dio. Grazie. Grazie a voi. Con il 1° maggio si è aperto il mese del lavoro e, come ogni anno, la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova propone una serie di appuntamenti. Quest'anno il titolo è Cose nuove del lavoro. Prossimo appuntamento sabato 12 maggio alle 20:45 al Piccolo Teatro Don Bosco a Padova per il musical realizzato dal gruppo teatrale Uno di noi delle suore operaie, appunto, Più della sabbia. Martedì 15 maggio, due appuntamenti: alle 19 nella chiesa di San Luca a Padova, una veglia di preghiera per il lavoro promossa da ACLI, CISL, Conf Cooperative, MCL e PSL. La stessa serata alle 21 al cinema multisala Pio X il film Le nevi del Kilimangiaro. Venerdì 18 maggio la staffetta di lettura alle 20:45 al Museo Diocesano nell'area Parole di lavoro, una staffetta che non è la prima edizione. Prossimi appuntamenti ve li diremo nelle prossime settimane. Ringraziamo l'associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo dato alla realizzazione di questa trasmissione. Noi ci troveremo nuovamente martedì prossimo alle 18:25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito o potete mandarci una mail per consigli e suggerimenti a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi, come abbiamo detto, è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.